È il festival letterario più importante d'Italia. Da 15 anni a Mantova si raduna un popolo di appassionati lettori che incontra scrittori già noti, ma anche autori da scoprire, perché questo è lo spirito della manifestazione. Pure quest'anno non mancano le star, da Massimo Gramellini, che con l'ultimo libro ha venduto più di 600.000 copie, a Ligabue in veste di autore di racconti. E c'è anche Fulvio Erbas, che con il romanzo sul ragazzo autistico è in classifica da più di 4 mesi. Fra gli stranieri, il Nobel Toni Morrison e Nathan Englander. Ma non c'è festival senza già. Dalla Svezia la coppia che si firma Lars Kepler, mentre i nuaristi italiani come Massimo Carlotto parlano dei maestri che li hanno ispirati. Spazio ai bambini con tanti incontri come quello sulla riscrittura delle favole dei fratelli Grimm a 200 anni della pubblicazione della prima raccolta. Ma qual è il segreto del successo del Festival di Mantova? Marzia Corraini, una delle organizzatrici. Probabilmente è anche dovuto al fatto che siamo stati i primi a individuare una necessità che c'era nelle persone, che era quella di stare insieme a parlare di cultura direttamente con gli autori stessi, senza formalità. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.